Se proprio devo, confesso. Ma non mi pento. Io un pentito non lo sarò mai. Di cosa dovrei pentirmi, voi? Sono un uomo pulito, io immacolato. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per un bene superiore che voi, per ancora troppa ignoranza sui fatti, non riuscite a comprendere. Per carità cristiana, in fondo. O perlomeno non avete abbastanza prove per poter dire il contrario. Posso avere almeno una sedia? Così. Tra uomini d'onore. Almeno una sedia. Grazie. Che Dio ti benedica. Confesso, tanto, anche se confesso, voi non potete farmi nulla. Io qui rappresento persone molto più in alto di voi, intoccabili. Lo stesso io sono intoccabile e voi non potete farci nulla, nulla. Nel peggiore dei casi mi sposteranno quando lei meno se ne accorge. In qualche buco di Dio della Spromonti o chissà dove, voi perderete le mie tracce mentre io me ne resterò nascosto quanto basta per poter continuare ad esercitare il mio ruolo, la mia vocazione. Quelli come me che voi ora tanto giudicate esisteranno sempre, esistono da sempre. Noi siamo la natura dell'uomo, noi siamo la più antica istituzione esistente. Cambiano nomi, nomenclature, modi, costumi, ma il nostro esistere nell'indole innata dell'essere umano. L'uomo è un animale che pecca. E noi siamo i pastori di un gregge di pecore nere votate alla cosa e a perdono. Noi amministriamo i peccati. Tutto qui. E nessuno può fare nulla per fermarci. Perché nessuno amministra i peccati meglio di noi. Ricordo benissimo quando ero un ragazzo, parliamo che avevo 17-18 anni, e di schifezze nella mia vita già ne avevo fatte e subite abbastanza. Ma questo è normale in un piccolo paesino, come quello dal quale vengo io, un piccolo paesino del sud. Voi direte è banale, ma è proprio così. Un piccolo paesino della Sicilia. 10 barche buone soltanto per andarci a pesca, qualche campo d'arance buono per andarci a fottere la notte o andarci a rubare, poi. E poi il barbiere, la cantina, la chiesa. E poi loro. Loro. 40 famiglie, detto che 40 famiglie l'una è imparentata con l'altra. Ricordo che ho sempre sentito parlare di loro. In famiglia come forma di rispetto non li si chiamava mai con il nome, ma noi lo sapevamo benissimo chi e che cosa era. Scendevano dalle loro auto scintillanti all'ultimo grido, anel d'oro sul dito, con rosso rubino, scarpe di vernice, sempre elegantissimi, catene d'oro con questi preziosi crocifissi che gli venivano dal collo mentre noi ci morivamo di fame. Sguardo fiero, giudicatore. Ricordo che chi mi incontrava lungo il cammino assumeva un'aria di mistica riverenza, una sottomissione totale fino ai più limiti della decenza. Erano pronti a tutto per loro. Dio, io quanto li amavo. Ricordo che una volta mio padre mi disse: qui in Sicilia comandano loro. E allora io capì che era soltanto una questione di affari. Avevo 17 anni e già avevo capito che lo Stato nello Stato esisteva. Io ci abitavo dentro. E sapete che cosa vi dico ora? Oggi anche voi ci abitate dentro. Solo che non lo sapete ancora. Cominciai ad avvicinarmi a loro lentamente, con un ossequioso rispetto. All'inizio sembrava un gioco, ma poi la voce cominciò a girare nel paese. Si mormorava nei vicoli, nelle piazze, nei mercati. E ciò mi inorgogliva. Hai visto il figlio di Vincenzo il cocchiere? Quando passavo, i vecchi della piazza mi guardavano, mi sorridevano, mi facevano un cenno di sì con la testa come per dire: eccone un altro, ti dobbiamo rispetto. E storsa. Mi sentivo potente. Ricordo che mio padre, quando capì che quello sarebbe stato il mio futuro, non disse nulla, ma d'altra parte io non ero che avessi delle alternative. Mi fecero studiare e questo era buono. Dicevano che era importante, volevano cambiare marcia, volevano gente che avesse studiato. Lo pagarono tutto loro, mi fecero studiare dalla Bibbia alla filosofia, alla storia, alla letteratura e così via dicendo. Io mi appassionai particolarmente ad un certo Baudelaire. Antichi chiostri dalle grandi mura esponevano in dipinti la santa verità. Quanto calore per le vie viscere temperate nel cielo della loro austerità. Erano tempi in cui fioriva il seme di Cristo, per un modo per illustre oggi poco noto, nel campo santo suo studio di pittore glorificava la morte con semplicità. Ma io circolo come un cattivo genovita, vivo dall'eternità un'alba che è una tomba, e sul dipinto e sulle mura di questo odioso chiostro che un monaco fa un urlone. Quando saprò mai fare dello spettacolo vivente della mia triste miseria, lavoro delle mie braccia e lavoro e l'amore per i miei occhi, Baudelaire. Lei conosce Baudelaire? Mi appassiona particolarmente questo suo modo di accostare sentimenti contrastanti, dislocati nel tempo, nello spazio. Credo Baudelaire, secondo il mio avviso, è un uomo che vuole capire, e anche io. Ricordo che più andavo avanti, più ero convinto che avrei fatto strada in quel mestiere. È solo una questione di affari, mi ripetevo, solo una questione di affari. E ne era convinto anche il mio amico di Roma, sì, perché poi carriera per carriera io arrivai fino alla capitale, avevo anche un ufficio io, in realtà io non ho mai capito che cosa mi servisse, ma loro dicevano che io dovevo averlo. Il mio amico, l'uomo più intelligente che io abbia mai conosciuto, aveva gli occhi di ghiaccio, freddi, gelidi, insensibili. Non era italiano, veniva da un paese dell'America o lì vicino, però era uno tosto, lo chiamavano il gorilla. In realtà questo soprannome lui se lo era guadagnato perché aveva sventato un accoltellamento del capo fuori porta. Il mio amico aveva mani dappertutto, banche estere, CIA, mafia, massoneria, affari di Stato. Era lui che si occupava delle finanze e dei traffici dell'organizzazione. Nemmeno la Chiesa si regge su di Ave Maria. Così diceva, nemmeno la Chiesa. Il mio amico, il gorilla, l'arcivescovo Paul Marcinkus, porta con sé tutti i più grandi segreti dello Stato nello Stato, uno dei tanti stati nello Stato. Il mio amico. Io ero per lui, diciamo così, il suo confessore in quegli strani anni 70. Strani per modo di dire, non c'è nulla di strano nella bruttezza. Le cose, i fatti, si ripetono in maniera mostruosamente ciclica e... E diciamocela tutta, nei fedeli principi religiosi della bruttezza. Anche perché secondo me il brutto è la cosa più vicina a Dio. L'errore. Intendiamoci, io mi schiero a difesa del brutto. Secondo me l'ultimo grande valore dell'umanità è una via virginale per la redenzione. Il mio amico. Lei se la ricorda la certamente misteriosa morte di Papa Albino Luciani? Eletto nel 10 agosto del 1978 e morto il 28 settembre del 1978. Se la ricorda? Ebbene, il mio amico non era molto contento di questa nuova elezione. Diceva, da uomo d'esperienza al quale era, che le cose cambieranno. Diceva. In realtà non era il momento di cambiare. Sin dalle prime direttive io capii subito che l'intenzione del mio amico era quella giusta, sì, perché Papa Albino Luciani subito cominciò una battaglia per far sì che la Chiesa abbandonasse tutti i propri beni, tutte le proprie ricchezze, L'atteggiamento francescano di tale portata non era assolutamente attuabile in quegli anni 70, dove le cose stavano cambiando e dove lo IOR, istituto opere religiose, stava assumendo sempre un ruolo più importante nei nuovi Vangeli apocrifi finanziari. Apostoli di tale beatificazione della moneta erano due amici dell'arcivescovo, Roberto Calvi e Michele Sindona. Crede nel demonio, nel fatto che ci si possa vendere l'anima al diavolo o cose del genere? Io sì, io ho prove tangibili che esiste un male supremo, misterioso, nero, che come una nebbia appesta i cuori e imbarbarisce gli sguardi. Ognuno di noi sa un demonio dentro. Sì. Chi lo ha a 10 teste, chi ha 7 braccia, chi mezzo uomo, chi mezzo leone, così via dicendo. Ebbene, Michele Sindona, secondo il mio amico, aveva una strana forma di demonizzazione. Un malessere d'animo, anche pericoloso, tra l'altro. Siciliano. E questo già porta con sé tutta una serie di informazioni genetiche che si tramandano da secoli. Scaltrezza di pensiero e velocità d'azione, doti essenziali. Perché arriva da un paese dove la schiavitù la devi mettere in conto. Schiavo del sole che ti ammazza, schiavo dell'acqua che manca, la natura maligna ti costringe alla sopravvivenza. Mastica ferro, si diceva nella sua parte. Uomo ambizioso e determinato, questo sì, fino ai limiti dell'umano. Infatti Sindona fa presto a far carriera. Si occupa di spostare i capitali del Vaticano in paradisi fiscali, così da evitare di pagare le tasse che lo Stato italiano esige. Illegale. Lei mi chiede se è illegale. Ma che cos'è la legalità? Se non una convenzione iscritta, in vincoli di codice di un codice penale. Che cosa? E poi, ripeto, come diceva il mio amico, la Chiesa non si regge sugli Ave Maria. Ricordo ancora i giornali come lo descrivevano Sindona, uno dei più grandi geni della finanza, era un vanto per il nostro paese. Ma il diavolo non fa mai nulla per nulla. Libero di Benzebù raggiunge il suo massimo picco biblico durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1943. L'America decide di invadere l'Italia partendo dalla Sicilia. Ecco che allora nacque la Sezione Italia, un gruppo votato alla causa che si spostava sull'isola dalle Tre Punte grazie all'aiuto di un vecchio boss mafioso, Lucky Luciano. Uno dei più grandi personaggi del XX secolo. Lei non se l'è mai posta questa domanda, vero? Lei lo sa che uno dei periodi più brutti e mostruosi della storia del nostro paese è finita anche grazie a gente come Lucky Luciano, eh? Gente che voi ora tanto denigrate, che dite essere nemici dello Stato. Redenzione lei la chiama, no? Io la chiamo lungimiranza. Il fatto sta che la mafia e la Sezione Italia collaborano assieme per la liberazione e per la promessa di affari post-liberazione. Tra i giovani che facevano parte della Sezione Italia c'è anche Sindona. Eccolo qui, il nome e cognome del diavolo di Sindona. Mafia e servizi segreti americani. Tra i clienti di Sindona c'era Vito Genovese, Daniel Porco, la famiglia Gambino, una delle famiglie mafiose più potenti americane. Compito di Sindona era quello di accrescere, spostare, cosa non da poco conto, legalizzare gli affari italo-americani di stampo mafioso. Eccoli qui, i soldi di Sindona. Non ho mai partecipato a nessuna riunione mafiosa, io! Non ho mai incontrato uomini mafiosi, io, o perlomeno non ho mai saputo di averne incontrato qualcuno, se l'ho incontrato senza conoscerlo. Può darsi! Ride! Ride! Ride, Sindona, ride, smentisce ed è sicuro di sé. tanto ridere, smentire ed essere sicuri di sé è gratis, non si paga, e poi anche se si pagasse, sin dai soldi li ha, li fa girare. La Fininbank, la banca di Sindona, fa un prestito di 4 milioni di dollari ad un gruppo di colonnelli che prenderà il potere in Grecia nel 1967. Finanzia la Rosa dei Venti, un'associazione segreta sostenuta dalla NATO, composta da civili e militari, per destabilizzare il potere politico in Italia. La P2 di Licio Gelli. Lei non conosce Licio Gelli. Non mi prenda in giro. Come fa a non conoscere questo amico del mio amico? Va bene, se proprio la mette così, Licio Gelli era innanzitutto un anticomunista. Gelli? Ah, Gelli era uno scosso politicamente, perché quando aveva 17 anni, in Spagna, i comunisti gli uccisero il fratello in trincea con lui davanti. Da allora iniziò la crociata anticomunista! Ma Licio Gelli non era soltanto questo. Licio Gelli è stato un fascista quando ci doveva essere fascisti, è un partigiano quando non si poteva più essere fascista, un uomo di larghe vedute, insomma, un lungimirante, un metodico organizzatore. Lei, signor Montanelli, Licio Gelli lo conosceva? Sì, no, cioè l'ho visto una volta. Io avevo un giornale, il giornale che non aveva padroni, non aveva pubblicità, e aveva una gran difficoltà a tirare avanti perché la proprietà era divisa fra me e un'altra trentina di redattori e non avevamo niente in mano. Io non riuscivo a trovare una banca che mi facesse un filo e mi trovavo davanti delle difficoltà di cui poi io sono tanto disarmato. Ad un certo punto il capo del nostro ufficio romano, Trionfera, che era massone ma non P2, mi disse: vieni a Roma perché c'è un signore che sta diventando il padrone della stampa italiana, forse lui può anche aiutarci. Allora io andai a Roma, all'hotel Excelsior, ad incontrare il signor Gelli, camera 123, questo me lo ricordo bene, però dovevamo andarci di nascosto, quindi decidemmo di fare così. Visto che tutti e due eravamo conosciuti dal portiere, entravamo discutendo fra noi, fingendo una discussione animata, imboccavamo le scale, in fondo al corridoio c'era questa camera 123 che poi doveva restare segreta, infatti andò così. Quindi entravo un mattino alle 11 fingendo questa discussione animata, e visto che c'erano tre corridoi che si ripartivano, non sapevamo quale infilare. In quel momento passa un cameriere con il vassoio della prima colazione, che vedendo le nostre esitazioni disse: ah, ma che cerchi, dottor Gelli? E io: sì, cerco il signor Gelli, ecco, tutta la clandestinità era di questo tipo. Andavo nella camera 123, così io vidi il signor Gelli per la prima ed unica volta, gli esposi la situazione e lui mi disse: ma questi sono dettagli, sono piccolezze, non sono problemi gravi, per cui ora bisogna procedere a ben altro, bisogna chiamare a raccolta tutta quella stampa italiana che è litigiosa, settaria, e bisogna portarla ad un indirizzo unico. Io lo fermai subito, gli dissi: scusa, ma come fai a portarla ad un indirizzo unico? La stampa segue criteri diversi, i giornalisti. Ma che giornalisti, disse lui, qui ci vuole un padrone della stampa. Eccolo qui, Licio Gelli, un uomo lungimirante, un uomo talmente lungimirante da capire prima di qualsiasi altra persona che il vero potere non sta nelle pistolettate, nel rubare, nella droga. No. Il vero potere è in due cose: amicizie e informazioni. E Gelli di amici ne aveva tanti, e tra questi amici c'era anche il mio amico, ma non era l'unico, perché tutto il gruppo di amici di Gelli faceva parte della loggia Propaganda 2. La P2. In quegli anni la magistratura si occupa di due casi riguardanti Sindona. Il primo è il rapimento che Sindona acqua su se stesso. Perché? E le cause sono tante. Fatto sta che Sindona scompare dalla circolazione per 2 mesi, per ricomparire 2 mesi dopo a New York con un colpo di pistola alla gamba, questo per rendere più veritiera la farsa. In realtà Sindona quei 2 mesi li passa in Sicilia, ospite di amici siciliani, amici ai quali puoi chiedere un favore, perché sono amici che un favore non te lo negano. Il colpo di pistola invece gli fu inflitto per ordine dello stesso Sindona dal suo medico, il quale guarda caso aveva un amico dentista dal quale si recava spesso ad Arezzo, dove guarda caso abitava Gelli. Il secondo caso invece riguarda l'omicidio di un uomo della magistratura, comunista e di parte, che doveva fare chiarezza sugli affari fuligginosi di Sindona, l'omicidio Giorgio Ambrosoli. cortesia l'avvocato Ambrosoli. Pronto? Pronto, avvocato Ambrosoli. Sì. Mi sono spiegato bene, avvocato Ambrosoli. Lei mi dice che Andreotti dice che la colpa è mia e io ho risposto. Esatto, lei ha telefonato là sopra, no? Sì. Dicendo che aveva telefonato a quello e che lei non voleva collaborare per nulla. Sì, ma mi scusi, io cosa ci posso fare? Chiamo il presidente del consiglio e gli dico, guardi che io non c'entro. Io vorrei sapere perché sono estremamente generici i suoi discorsi. L'onorevole Andreotti dice che io non voglio collaborare per cosa? Lui ha telefonato direttamente a quello dicendo io ho fatto la telefonata da quel signore là. Ma che dottor Ciampi mi avrebbe telefonato secondo Andreotti? Esatto. Ma come fa ad inventarselo? Il presidente del consiglio. E perciò gli sto dicendo io. Lei chiami in Banca d'Italia e chieda se il dottor Ciampi mi ha telefonato. Io non chiedo niente a nessuno, avvocato Ambrosoli. Io voglio solo che lei si renda conto della situazione e dopo noi altri ci rivediamo. Io la vengo a salutare di persona. E sarebbe ora. Va bene, avvocato Ambrosoli. Arrivederci. E vengo anche con una bella busta così ci guadagniamo. No, io non. Come no, avvocato Ambrosoli? No, volevo dire che non c'è niente da guadagnare. Ah, va bene, avvocato Ambrosoli. Io vedo che lei è una persona a posto. E per cui non me la sento di fare del male a lei, se prima non ne sono proprio sicuro. Ma mi sono spiegato, avvocato Ambrosoli. Ti ho spiegato benissimo. Pronto? Pronto? Pronto, avvocato Ambrosoli. L'altro giorno ha voluto fare il furbo, ha voluto registrare la telefonata. L'altro giorno ha fatto il furbo, ha registrato la telefonata. Chi l'ha detto? Sono avanti che chi me l'ha detto. Io la volevo salvare, avvocato Ambrosoli, ma da questo momento non la salvo più. Non mi salvo più? Non la salvo più perché lei è degno di morire ammazzato come un cornuto, perché lei questo è un cornuto e un bastardo. Pronto? Pronto? Pronto? Giorgio Ambrosoli viene assassinato sotto casa sua da un certo William Joseph Haricot, detto Billy lo sterminatore, un killer della mafia assoldato da Sindona per $115,000, arrestato morto durante una strana evasione nel 1984. Anna carissima, sono pronto per il deposito dello stato passivo della banca privata italiana, atto che ovviamente non soddisferà molti e che è costato una bella fatica. Non ho timori per me, ma è certo che il fatto stesso di dover trattare con gente di ogni colore e risma non mi tranquillizza affatto. È indubbio che in ogni caso pagherò a caro prezzo l'incarico, lo sapevo anche prima di accettarlo, quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. Ricordi le speranze mai realizzate di fare politica per un paese e non per i partiti? Ecco, io a 40 anni di colpo ho fatto politica in nome di uno Stato e non per un partito. Con l'incarico ho avuto in mano un potere enorme e discrezionale al massimo ed ho sempre operato, ne ho la piena coscienza, solo nell'interesse del paese, creandomi ovviamente solo nemici, perché tutti quelli che hanno avuto per mio merito quanto loro aspettavano sono certo riconoscenti ed hanno ragione, anche se non fosse per me avrebbero recuperato i loro averi parecchi mesi dopo. I nemici comunque non aiutano e cercheranno in ogni modo di farmi scivolare in qualche fesseria, e purtroppo quando devi firmare centinaia di lettere al giorno puoi anche firmare fesserie. Qualunque cosa accada, comunque tu sai quello che devi fare e sono certo lo saprai fare benissimo. Dovrai allevare tu i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo sempre creduto. Abbiano piena coscienza del valore e del rispetto verso se stessi, verso la famiglia, nel senso trascendentale che io ho, verso il paese, che si chiami Italia o che si chiami Europa. Riuscirai benissimo, ne sono certo, perché tu sei una ragazza molto in gamba, i ragazzi sono uno meglio dell'altro. Sarà una vita dura per te. Ma tu sei una ragazza talmente in gamba che te la caverai sempre, farai sempre il tuo dovere, costi quello che costi. Hai degli amici che potranno aiutarti. Sul piano economico non sarà facile, ma a parte l'assicurazione vita, tuo. Giorgio Ambrosoli. Ricordo un'intervista alla TV. C'era un politico, uno grosso, un nostro amico. Esatto, ho capito di chi sto parlando. Esatto, il colpo disse: Ambrosoli se l'è cercata. In quegli anni la magistratura inciampa di nuovo nel nome di Gelli. E nel 1981 la finanza che cosa ti fa? Ti scopre uno dei documenti più importanti della storia italiana, la lista P2. Ora, è inutile che qui ci stiamo a spiegare che cos'è la lista P2, è inutile farci sopra un sermone laico. C'erano dei nomi nella lista P2. Sindona, il signor Silvio Berlusconi, Roberto Calvi e poi magistrati, politici, tutto in quella lista, se fosse stata la sola. Ma la P2 è stata una cosa sempre molto strana, veramente strana. Propaganda 2 era formata da persone molto influenti nello Stato. Lo Stato. Comunque Gelli dichiarava queste persone e se stesso ignorante e completamente all'oscuro di tutto ciò che accadeva sulla scena politica in quegli anni. Erano quindi all'oscuro del caso Moro, eppure il comitato Moro era formato da persone che facevano parte della lista P2. Estranei a tutto ciò che accadeva sulla scena politica di quegli anni, eppure gli amici di Gelli erano tre ministri, 67 politici, di cui 44 parlamentari, 52 dirigenti ministeriali, 208 divisi tra carabinieri e forze dell'ordine, e poi 18 altri magistrati, 52 banchieri, 120 imprenditori, 52 giornalisti, e mancano, diceva Gelli sfuggita durante un'intervista con un sorriso beffardo, mancano, ma gli amici, quelli veri, quelli che quando hai bisogno di un favore te li trovi, beh, quelli sono importanti nella vita. Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del grande architetto dell'universo, per la memoria e l'affetto dei miei più cari, sul mio onore e sulla mia coscienza, solennemente, giuro di non palesare per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di avere sacri la vita e l'onore di tutti, di soccorrere, confortare e difendere i miei fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare principi che osteggino quelli propugnati dalla libera muratoria e fin da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare ai miei giuramenti, di sottopormi a tutte le pene che gli statuti dell'ordine minacciano, agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, all'esecrazione e al disprezzo di tutta l'umanità, a noi! Questo era il giuramento della propaganda 2. Ricordo che in quegli anni fece scalpore un documento ritrovato tra tutti i documenti ritrovati riguardanti la P2, uno in particolare. Piano di rinascita di Licio Gelli, un programma in 53 punti dell'organizzazione segreta. Con la sua attuazione avremo una nuova e più seria democrazia. Con la sua attuazione avremo una nuova e più seria democrazia. Che doveva dare maggiore chiarezza e funzionalità dei programmi. Che doveva dare maggiore chiarezza e funzionalità dei programmi. Venne considerato un piano eversivo. Venne considerato un piano eversivo. Anche perché prevedeva una repubblica presidenziale. Anche perché prevedeva una repubblica presidenziale. Questo afferma Gelli. Gelli dice anche che forse avrebbe fatto meglio a depositare il piano di rinascita alla SIAE. Magari così gli avrebbero pagato i diritti d'autore. Sentenza dallo sguardo divino ed infernale. Tu versi così confusi beni e delitti che ti si può dire pari al vino. Ma dimmi, vieni dal profondo cielo o sbuchi dall'abisso? E nell'occhio l'aurora ed il tramonto, spandi profumi come una sera di tempesta. I tuoi baci un filtro, la tua bocca un'anfora, fanno eroi vile di bambino coraggioso. Cammini sopra i morti dei quali bellezza tutti i bulli. Dei tuoi gioielli non è certo l'orrore il meno affascinante. E l'omicidio dei tuoi più cari giovani ti danza amoroso sul ventre orgoglioso. Vado dagli occhi di velluto, ritmo, profumo, raggio, unica mia regina, la santa non da Dio. Cosa importa? Angelo sirena, cosa importa? Tu rendi meno schifoso l'universo e meno pesante ogni momento. Ah, Baudelaire. scusi, ha ragione, che... ha perfettamente ragione. Dobbiamo ancora parlare di Roberto Calvi. Roberto Calvi era... Non so se sia giusto, se sia giusto parlare di queste cose in pubblico. Roberto non avrebbe voluto. Signora Calvi! Chi ha ucciso suo marito? Signor Biagi, facciamo come Sherlock Holmes. Possiamo fare una lista? Non faceva così Sherlock Holmes? Facciamo come Sherlock Holmes. Chi aveva interesse a nascondere di essere già in bancarotta? Chi l'aveva? Lo York, la Banca Vaticana. Poi possiamo mettere nella lista... Poi sono sempre gli stessi colpevoli al processo. Quelli che hanno mandato lui innocente in prigione, che mi pare che sia un delitto che grida vendetta davanti a Dio. Poi? Poi i servizi segreti internazionali. E perché io li ho seguiti a testa bassa per aiutare Roberto. Ecco, mi parli di Francesco Pazienza, che tipo è? Una persona simpatica. Intelligente, abile. Sì, sì, abile. Soprattutto a fare i suoi affari. Roberto mi aveva detto che faceva parte dei servizi segreti, ma non mi ha mai detto di più. Cosa premeva lui? Perché doveva darsi, farsi? No, questo non me lo sono mai chiesto, ma naturalmente non per nulla. Quando sono cominciati i guai per suo marito? Beh, abbiamo sempre avuto minacce di morte, ma questo penso capita a tutte le persone che arrivano a un certo livello. I guai veri e propri sono cominciati all'inizio del 1989, perché c'era il processo in vista, processo in cui lui era completamente innocente. Ora, io ho sempre saputo che, diciamo, tra gruppi economici si fanno le guerre, no? Anzi, le guerre si fanno sotto i mondi economici. E per cui non mi meraviglia che un altro gruppo economico, un gruppo privato, si difenda come può, con le unghie, con i denti e perché no, con gli assassini. Succede in America, succede in tutto il mondo, però da parte della Chiesa io questo proprio non me l'aspettavo. Ora, perché era già in prigione? Perché mio marito era già in prigione e si preoccupava, ma io non sapevo niente di questa storia, lo vedevo disperato, sapeva. Sapeva anche che sarebbe andato in prigione. Finché un giorno ti è stancato e ha dettato a me e a mia figlia. Questo processo si chiama IO. Ma lo IO, ovvero istituto opere religiose, era il padrone del Banco Ambrosiano. Era l'azionista di maggioranza, possedeva il 16%. E questo è inutile che lo neghi il Papa. Erano usciti un paio di articoli, lei se li ricorderà, su Repubblica. A piena pagina, in cui si parlava della grande banca cattolica che Roberto aveva intenzione di fare, di mettere insieme. Perciò lo sapeva di essere in pericolo di morte, no? Ma ne parlava bellamente, ne parlava con me, a mia figlia, le lo diceva mio figlio. Ma la vera minaccia di morte, vera e propria, concreta, è accaduta subito dopo la fuga di Jerry d'Italia. Lei, Michele Sindona, lo ha conosciuto? Ma non lo si può paragonare a Roberto in quanto la sua formazione, no? Cioè, me l'aveva detto lui stesso che aveva cominciato con la borsa nera in Sicilia. Roberto invece che aveva fatto il liceo classico, poi era andato in Russia. Purtroppo tutte queste differenze, Sindona e suo marito hanno fatto tanti affari insieme. Cioè, il periodo in cui lavoravano insieme, il periodo in cui avevano preso la centrale insieme, no? Questo si sa. Si sa anche che Sindona era un uomo abilissimo e un fiscalista pieno di risorse. Si sa che a un certo punto Sindona fece attaccare vicino all'Ambrosiano, dicono, dei manifesti che alludevano a certi conti in Svizzera di suo marito. È vero o no? Sì, Roberto Calvi, Sindona. È vero allora? Ma certo che ci li ha messi. Li hanno messi anche sotto la porta di casa, ma io non penso sia stato Sindona. Lei non crede che Sindona abbia avuto questa iniziativa? No, io penso che abbia venduto delle notizie alle quali attaccarsi. O regalate. Io non penso che Sindona sia tipo da regalare qualcosa. Però a Sindona suo marito ha regalato parecchi soldi, perché in carcere lo stesso Sindona mi disse che aveva pagato tutto Calvi. Vorrei non entrare in questi particolari. In certe organizzazioni io non ci voglio mettere il naso nella maniera più assoluta. Io so una risposta. Una risposta che mi farebbe anche rischiare la pelle. Però c'è un limite. Lei cosa pensa della P2? Penso che sia una loggia come tutte le altre, una loggia massonica. Però francamente la massoneria in Italia è servita soltanto a soldere che non voleva ammettere di essere massone, perché effettivamente non si sono aiutati tra di loro. Io ho sempre pensato, almeno mia madre ne parlava così, che la massoneria fosse formata da gente che si impegnava ad aiutarsi tra di loro, con nobili scopi. Dicevano che ne facevano parte grandi avvocati, professori universitari, personaggi molto intelligenti, molto importanti, molto influenti. La P2 era così. Io penso che Jerry fosse Jerry, ma che ci fossero anche persone che si allearono per cercare di migliorare le cose. In fondo in Italia si sanno fare molto bene. Da questo racconto suo marito viene fuori come un uomo ingenuo, circondato da tanti lupi che non vogliono far altro che sbranare. Infatti, gli altri sono ancora tutti vivi, solo lui è morto. questo giallo in definitiva quali sono i punti oscuri? Beh, perché l'hanno ammazzato mi pare che sia chiaro, no? Perché non potendolo più trattenere, perché evidentemente era andato all'estero, perché poi non bisogna dimenticare che è sparita la borsa con tutti i suoi documenti. Lui ha fatto uno sbaglio, quello di sapere tutto solo lui. Lei cosa pensa ci fosse nella borsa che suo marito teneva con sé? I documenti che riguardavano il debito del Vaticano, la bancarotta del Vaticano, che aveva trascinato il banco dell'Ambrosiano alla rovina, però con la complicità, e questo è un mio parere, possono farmi querela finché vogliono, con la complicità dei ministri italiani, perché mi risulta che siano stati eletti dal popolo italiano e che devono difendere il popolo italiano, non difendere il Vaticano. Questo proprio nella maniera più assoluta. Vorrei sapere solo una cosa, questo giorno di Londra voi come lo avete vissuto? Suo marito vi ha telefonato? Certo, ma guardi che nelle prime telefonate non voleva nemmeno sentire dire la parola scappato. Lui era andato lì per fare affari con l'Opus Dei. Lei lo sa che l'Opus Dei ha smentito, vero? Sì, ma a me non me ne frega niente. I magistrati hanno detto che io sono la fedele depositaria della parola di mio marito e io giuro che mio marito queste cose le ha dette. Che cosa vi ha detto? Io sto trattando... L'aveva già detto prima. Che stava trattando per risolvere il problema del debito del Vaticano che era già in bancarotta praticamente. Anzi, una volta mi disse, Monsignor Hilary Franco, l'uomo più vicino al Papa, mi ripete sempre. Sei sempre sotto la nostra completa protezione. C'è una domanda. Una domanda che mi faccio, possiamo dire, da sempre. Un uomo qualunque, un uomo che ruba, che uccide, quanto costa? Lei, per esempio, quanto costa? Materialmente proprio, dico, con quanto la potrei comprare? Non si offenda, non si inalberi. Faccia una cosa, dia questa risposta a se stesso. Si faccia questa domanda. Per che cosa mi farei comprare? Qual è il mio prezzo? Non creda che per educazione verso l'onestà noi non abbiamo un prezzo. Mettiamo il caso che io ora le offrissi 100, 200... Questo se volessi essere buono e farla guadagnare, se invece io fossi uno scorretto totale, se io anziché usare la leva del mettere usassi la leva del togliere, del levare, se io levassi qualcosa, se io adesso in questa sede tanto ufficiosa lo chiedessi, come sta sua nipote e sua madre? Lei sgrana gli occhi. Serra le mascelle, entra in un tunnel di paure, di ansie e comincia a farsi una domanda. Che cosa avrà voluto dire? La sente ora toccata la sua corda dell'onestà, la sente vibrare, sente che queste sue affermazioni hanno un limite. Anche questo è un prezzo, no? Che lei sarebbe disposto a pagare pur di non far trapelare nulla al di fuori di questa santa sede. Scherzando. Scherzo. Non si preoccupi, poi io non ho bisogno di chiedere per avere. Tornando a Calvi, c'era mia madre, santa donna, che mi ripeteva sempre: meglio comandare o gli arrittare. Avrà capito, no? Meglio il comandare che il fottere, lo scopare, il trombare. Però lei si scandalizza per tutto, mi perdoni, non è che perché noi esercitiamo l'arte dell'estrema unzione non siamo attratti dal fascino del fottere, no? È proprio questa nostra protezione verso la morte che siamo attratti verso questo atto della vita per antonomasia, l'ancestrale e divinatorio scopare. Ti vede quei semi turgidi di quella signora? Signorina, di qual è? Mi piacciono i suoi semi, li morderei. Per quanto riguarda lei non faccio così. Glielo leggo negli occhi che farebbe la mia stessa cosa, ma d'altra parte chi resisterebbe davanti ad un corpo di donna? Un piccolo, piccolissimo corpo, con piccoli semi, grandi occhi, piccole spalle, mani agili. Corpo candido, vergine, come quello della Santa Maria, no? Chi resisterebbe davanti a un corpo di bambina? Sarà forse la repressione o il vizio represso? Ma le bambine? Beh, torniamo al nostro amico. Lui era anche un buon uomo. Solo che quando entri in dei circuiti di potere, e per potere non intendo potere economico, intendo potere, Che cos'è il potere? Beh, il potere è... Il potere è... Lei vede questa moneta? Il potere di questa moneta non sta nel fatto che è qui nella mia mano, non sta nel fatto che è una moneta, non sta nel fatto che magari io ci potrei anche giocare, no? Rischiando di farla cadere da un momento all'altro come un funambolo senza rete, no? Il potere di questa moneta... Lei la vede questa moneta? Ebbene, ora non la vede più. Lei sa benissimo questa moneta dov'è, che è il palmo della mia mano. Io sto stringendo così forte da farmelo sanguinare questo palmo, ma lei non la vede la moneta perché io voglio che lei non la veda. Per poi farla ricomparire magicamente, oh, dietro il suo orecchio, davanti al suo naso, e farle credere che questa moneta, che lei sapeva benissimo dov'era, non ha fatto altro che fluttuare in aria magicamente per ricomparire dietro il suo orecchio. Eccolo qua il potere. Angelus Domini, ora et labora. Angelus Domini, ora et labora. Angelus Domini, ora et labora. Angelus Domini, ora et labora. Carvi, come abbiamo detto, amico di Ser Sindona, lo stesso Sindona che gli presenterà il venerato Gelli, prenderà in tutto e per tutto il posto del medesimo alla sua caduta. Caduta rocambolesca che si concluderà con la morte di Sindona in carcere con un caffè avvelenato. Suicidio? Calvi, quindi, presidente del Banco Ambrosiano, banco, ricordiamo, privato cattolico, noto anche come la Banca dei Preti. Talmente cattolico che per lavorarci bisognava presentare una lettera di presentazione del parroco o un certificato di battesimo. Presidente, sì, ma lo stesso Calvi ripeterà spesso? L'Ambrosiano non è mio, io sono solo al servizio di altri, di più non posso dirvi. Allora, chi? Affermazione dantesca, direi. Sta di fatto che il Banco Ambrosiano divenne ufficialmente il braccio destro economico della nascente P2! Alcuni infatti sostengono che la sera di Natale del 1969 si tenga un vertice segreto e riservato tra Calvi, Sindona e un certo Umberto Ortolani, numero 2 della P2, facendo, mettiamola così, un patto d'onore per il bene di tutti. In sostanza, ognuno dei tre metteva a disposizione dell'altro conoscenze e fatto sta che dopo un anno Calvi diventa direttore generale dell'Ambrosiano. Sempre grazie a Sindona, Calvi conosce l'arcivescovo Paul Marcinkus, che presidiava New York. Istituto Opere Religiose. La Banca Vaticana. I tre si mettono in società e fondano le Bahamas la Sesopine Overseas Bank. Calvi collaborava sempre, grazie all'amicizia della P2, con un certo Anastasio Somoza, un abbastanza sanguinario dittatore del Nicaragua. Angelus Domini, ora et labora. Scattano una serie di indagini fino al 23 dicembre del 78, dove il giudice Alessandrini riceve il rapporto di Banca Italia sull'Ambrosiano e per caso dopo un mese, il 29 gennaio del 79, verrà fatto fuori. Molti altri nemici dell'Ambrosiano di lì a poco e di lì a un paio di mesi vengono trucidati come Baffi, Sarcinetti. Nel suo tracollo Calvi si affida ad un certo Francesco Pazienza, un faccendiere ben pagato da Calvi che lo amministra in tutto, uomo a metà strada fra i servizi segreti americani e la nascente P2. Ma la caduta del grigio Calvi continua e dal carcere dove è rinchiuso fa di tutto, addirittura tenta il suicidio e tramite la moglie e la figlia fa trapelare un messaggio al Vaticano. Questo processo si chiama Iore. Naturalmente si riferiva all'intreccio tra Ambrosiano, Vaticano e il sindacato polacco Solidarnosc e altre forze anticomunista. Ricordiamo che il Papa era... Caro Nuova di Cracovia, Polonia. Pazienza allora fa di tutto per far uscire Calvi, parla e vede tutti, compreso l'arcivescovo Paul Marcinkus, il quale gli dice di stare calmo, che il Vaticano sta facendo tutto. Tant'è vero che Pazienza telegrafa a Calvi scrivendogli: ho visto Paolo, ti saluta tanto, tutto bene. Ma Calvi comincia a parlare e da qui è panico totale. Tutti si sentono toccati, tutti quelli naturalmente che sono stati unti economicamente da Calvi, e sono tutti. Il più scatenato è Bettino Craxi, che afferma che i giudici che hanno messo le manette ai polsi di Calvi sarebbero... i responsabili politicizzati! Poi colpevoli di... violenza, crisi intimidatoria, crisi della borsa, abusi! Calvi viene condannato a 4 anni di carcere per esportazione illegale di capitale all'estero, ma gli viene concessa libertà provvisoria con processo fissato 12 mesi dopo. Calvi si affida anche ad un altro faccendiere, Flavio Carboni, amministratore di molti politici, tra i quali... Silvio Berlusconi! E vicino a personaggi della banda della Magliana e Cosa Nostra. Ma il tempo del processo galoppa e Calvi deve fare qualcosa. Intanto teme sempre più per la sua vita. Calvi è scomodo! Ma anche nel Vaticano c'è una faida in atto tra Marcinkus e Lobstein. Intanto viene garantizzato il vice di Calvi, Rosone, ma il mentite, viene colpito da una guardia giurata e scopriamo che era un boss della malavita romana. Allora Calvi manda la mia moglie e la figlia in giro per il mondo per proteggerle, ma a Calvi servono soldi, tanti troppi e subito. Allora chissà, forse per carità cristiana l'arcivescovo Marcinkus gli fa firmare delle lettere di garanzia. Garanzia inutile, dato che lo stesso Marcinkus con un giochetto fa firmare a Calvi delle controlettere che dichiaravano l'esternalità del Vaticano alla faccenda. Ma Calvi ha ancora delle carte da giocare? Carte che custodisce in maniera impacciata in una borsa da cui non si separa mai. Comincia a girare il mondo alla ricerca di un accordo con anche la segretaria, anche se nessuno la vede, si suicida gettandosi dalla finestra. Carli è solo, si trova a Londra in uno squallido albergo. Lui che era abituato al meglio e stanco, lui era solo un ragioniere, tutto qui. Un ragioniere che sapeva troppo. Tutti lo hanno abbandonato. Una notte lascia l'albergo! Angelus et Domini, ora entra ora. Alle 7.25 del 18 giugno un impiegato delle poste di Londra, Anthony Hunter, passeggiando lungo le rive del Tamigi, vede un corpo di un uomo impiccato che pende sotto un traliccio del ponte di Blackfriars. Le forze dell'ordine dopo scopriranno che si trattava del 62enne Roberto Calvi. Suicidio. Io ricordo un articolo della Repubblica del 27 gennaio, sì, 27 gennaio del 1989. Questo articolo diceva più o meno così. Milano. Sono ancora sconvolta e mi è difficile parlare anche se questa sentenza ce l'aspettavamo. Una grande vittoria. Ci volevano dei magistrati che dicessero chiaro quello che tutti hanno sempre saputo. Mio marito fu ucciso. Clara Canetti Calvi risponde al telefono della casa di Montreal con una voce sottile ma decisa. La vedova di Roberto Calvi ripete con forza le sue accuse. Chi l'ha ucciso? Non credo che i principali responsabili siano Paul Marcinkus e i dirigenti del Vaticano. Ricordo quando Marcinkus mi disse: uccidere per noi non è un peccato, perché così liberiamo un'anima dal corpo. Ritorniamo al nostro amico. C'è un altro caso che lo riguarda. Ha per protagonista una ragazzina, una cittadina vaticana. Ma che fa? Piange. Ma che sta piangendo? Ma proprio lei. Padre. Guardi che io non le ho detto nulla di nuovo. Queste cose ormai le sanno tutti quanti. E poi nella vita si piange soltanto per due cose. O per pena o per paura. Beh, io credo che pena di me non se ne possa proprio avere. Per quanto riguarda la paura, di che cosa ha paura lei? Di perdere il posto per caso? Guardi che questi sono soltanto fatti, teorie. Lo Stato ha bisogno di prove. Il nostro Stato, lo Stato Vaticano, ma è meno di quello. Denuncia. Lei mi denuncia. Non faccia l'idiota, padre. Lei sa benissimo. Non può, perché lo sa che dal momento stesso in cui noi indossiamo questa toga non siamo più degli uomini, non siamo più degli uomini semplici, soggetti alle leggi che siamo legali, morali. Noi con questa toga siamo lo Stato Vaticano, un'istituzione da 300 braccia e 400 occhi, un corpo solo imbattibile. Lo so. Io lo so che non esistono solo quelli come me, per fortuna direi. Anche io ho conosciuto preti che hanno dato la propria vita per i più poveri, per i bisognosi, ma lei però non può negare che esistono anche quelli come me. E non può farlo perché commetterebbe due peccati, superbia e falsità. Vede padre, noi siamo piccoli, piccolissimi. Alzi gli occhi. Vede queste colonne, questi microangeleschi affreschi, questa architettura iperbolica. Noi apparteniamo al sempre finito, al sempre umano. Io, lei, il Papa. Ma tra 50-60 anni non ci saremo più. E con la nostra dipartita porteremo via con noi tutto ciò che abbiamo fatto di buono e non buono. Nessuno si ricorderà più chi o che cosa siamo stati. Alzi gli occhi. Questo esisterà per sempre. la Chiesa ci sotterrerà tutti quanti. Allora padre, mi lasci andare, mi dia un paio di Ave Maria, un Padre Nostro, che ho un paio di signorine, diciamo così, da andare a confessare. Mi stia bene, padre. Angelus et Domini, ora et labora. Angelus et Domini, ora et labora. Angelus et Domini, ora et labora. Angelus et Domini, ora et labora. Io fui Dio, io fui Cristo, io fui Papa, io sono stato e sarò per sempre lo Stato Vaticano.